ascoltando la nostra canzone, ti ho vista piangere, non piangere amore, non devi soffrire per qualcosa che non c'è, amore, ci penso io, mi prenderò cura di te. Tu sei piccola e fragile, sarai per sempre così, d'inverno, d'estate, ti prego non cambiare mai. Asciugandoti il viso ho notato che tu hai perso lacrime, lacrime di cristallo. Lei non sa più cos'è l'amore, lei soffre oramai. Che cosa c'è che ti fa stare male? Tu sei piccola e fragile, sarai per sempre così, d'inverno, d'estate, ti prego non cambiare mai. Legati dal destino, divisi da noi due, sarà che sei la luce dentro il cuore.